bocca, le mani in bocca. Adesso ti metterò le mani in bocca. Ca, ti metterò le mani in bocca. Le mani in bocca. Adesso ti metterò le mani in bocca. Ca, yeah!